9 in punto. Sì, aspetti, l'accompagno. Conosco una strada e poi non si può andare a due. L'accompagno lo stesso. È arrivato il momento di imparare a dire di no. Come volete voi. Però, dito io. Lo sapete come sta? Sono il direttore. Come sta accendendo? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Avete sentito un brano? Beh, insomma, non potevamo evitarlo nella giornata di oggi. Un brano da Benvenuti al Sud. La voce, naturalmente, era quella di Claudio Bisio, insomma, che arriva super efficiente nel tentativo, viene di fatto esiliato no? In Campania, arriva nel tentativo di rimettere a posto questo ufficio postale, come direttore dell'ufficio postale, tenta di imporre il modello di efficienza lombardo nell'ufficio postale del sud e poi alla fine insomma, non sa nemmeno accendere il motorino. Allora Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, si sente un po' come Bisio in questa sua idea. Lei dice dateci il tutoraggio di bilancio delle regioni del sud, noi ve lo rimettiamo a posto, dateci carta bianca, noi rimettiamo a posto quei conti. Ma guardi, la mia constatazione è una considerazione che viene poi da una constatazione che se si applicassero i costi della pubblica amministrazione della mia regione, di quello che costa la pubblica amministrazione in Veneto, a tutta Italia il risparmio annuale sarebbe di 30 miliardi di euro, vuol dire più di un terzo dell'interesse sul debito pubblico, semplicemente chiedendo a tutte le regioni di vivere come si vive in Veneto. L'idea del Veneto, ma lei dice, insomma, parliamone col governo, se volete possiamo metterci insieme noi, quelli che hanno i conti a posto, quelli che stanno meglio dal punto di vista dei conti, voi, la Lombardia, l'Emilia Romagna, ci dite, insomma, prendete sotto il vostro cappello il bilancio di una regione meridionale e appunto controllate, rimettete a posto, rivedete le cose, soprattutto immagino dal punto di vista sanitario, penso naturalmente ai costi standard, tanto per fare un esempio. Ma sì, guardi, lei dice bene, anche perché la vera partita del default, del disastro dei bilanci pubblici, non solo in Italia ma in giro per il mondo, passa attraverso il costo della sanità, per cui avere a posto i conti della sanità significa innanzitutto avere una sanità efficiente, e curare bene i cittadini e poi avere bilanci a posto. Faccio un esempio, in Veneto il pasto in ospedale costa circa 6,5 euro. In giro per l'Italia, in alcune regioni, in alcuni ospedali del sud, ce lo dice il Ministero della Salute, il mio pasto da 6,5 euro viene a costare 60-80 euro. Quindi le dico che questa azione di tutoraggio non è tanto una provocazione, perché poi di fatto un po' lo stiamo già facendo, perché molti governatori del sud, penso a Stefano Caldoro, che ha una visione lungimirante, chiedono di avere i manager della sanità, ad esempio del Veneto, come supporto per questa sfida che anche loro vogliono vincere. Allora, quindi nemmeno tanto una provocazione, dice lei, ma lei quale regione si prenderebbe? Ma guardi, io penso che il tema non sia quello della sfida, il tema è quello di dare una mano. La si può dare, visto e considerato che abbiamo una squadra di manager che si sono formati negli ultimi 30 anni, 20 anni. La mia sanità chiude i bilanci in attivo e consideri che conosciamo l'immigrazione sanitaria e non abbiamo l'emigrazione di veneti che vanno a curarsi in giro per il mondo. Che ragione, siamo a disposizione, se si volesse fare una bella roba, tipo il commissario dell'alluvione, io ho fatto il commissario dell'alluvione, con un po' di poteri speciali, un po' di carta bianca, si riesce a dare più servizi ai cittadini e guarda caso poi come ricaduta aver meno casini nei conti a livello nazionale. Noi abbiamo qua anche un responsabile di bilancio di una regione del Mezzogiorno, e lo saluto, è Luca Bianchi, assessore all'economia della Sicilia, tra l'altro voce che qua a Radio 24 avete già sentito altre volte, perché anche un economista è vice direttore, o era naturalmente vice direttore dello Svimez. Buongiorno Bianchi. Buongiorno, buongiorno. Che le pare? Ma bisogna analizzare le cose insomma, nel loro complesso, no? Insomma, la disponibilità ovviamente del governatore Zaia non può che essere accolta con piacere, bisogna capire che le cose sono un po' più complicate purtroppo, non è solo un problema di capacità delle singole persone, anche perché non è che c'è una, diciamo, una superiorità del nord in termini di qualità del personale rispetto al sud affermata da nessuno. C'è un problema di molto più complesso, i trasferimenti, di appunto di è vero di qualità della pubblica amministrazione, ma al suo complesso su questioni che si sono insomma lasciate andare per molti decenni. Noi insomma in molte cose i progressi li abbiamo fatto. Si citava la questione della sanità, anche la Sicilia ha una sanità in equilibrio, cioè dopo aver fatto un piano di rientro sanitario abbiamo adesso un assessore che si chiama Lucia Borsellino che ha appunto abbiamo appena fatto il tavolo sulla sanità e la sanità regionale è in equilibrio, mentre ci sono regioni del nord, penso al Piemonte, del centro come il Lazio, che hanno dei bilanci regionali sulla sanità completamente fuori controllo, quindi non è un problema di collocazione geografica, è un problema più ampio di qualità della pubblica amministrazione, quindi diciamo la questione territoriale è una questione, peraltro è molto più facile, diciamocelo, amministrare una regione con un PIL pro capite che è di 40 punti in termini percentuali superiore a un'altra regione, cioè come immaginate in questa area, tipo la Sicilia dove io sto facendo questa esperienza, abbiamo problemi di povertà, di trasferimenti sociali, diciamo, al sistema pubblico si chiede molto di più che in altre aree, perché c'è un sistema privato che non ce la fa, quindi diciamo è un po' più complicato di come la mette il governatore Zaia, quindi insomma anche lui se lavorasse qui qualche difficoltà in più forse la troverebbe. Allora 800 24 00 24 per intervenire in diretta, www.facebook.com/9in.radio24 è la nostra pagina Facebook ed è un modo anche questo, anche questa giornata, questa che Zaia ci ha detto non essere una provocazione, per parlare anche un po' più in generale del Mezzogiorno. C'è un libro che ci ha incuriosito molto, edito dalla Terza, di un economista, Il Sud vive alle spalle dell'Italia che produce, falso, punto esclamativo. Anche questo, professor Gianfranco Viesti, buongiorno. Il suo libro meriterebbe addirittura una puntata a parte, perché se ben conosco, come ormai mi sembra di conoscere, la sensibilità dei nostri ascoltatori, ci sono delle cose che lei sostiene, in realtà supportate da dati, che li farebbero imbestialire, perché vanno un po' contro il senso comune, no? Quest'idea secondo quale appunto il Mezzogiorno vive sulle spalle delle regioni del nord, e insomma e non solo, anche sul flusso di denaro pubblico che effettivamente è andato al sud, soprattutto dal lato degli investimenti e così via, o no? Guardi, grazie dell'invito, è sicuramente disponibile a tutte le puntate che ritenete. Io credo che l'Italia abbia bisogno, possa giovarsi, diciamo, di riflessioni un po' più tranquille di quelle che sono state fatte negli ultimi anni. È un paese che si conosce un po' poco e che è stato attraversato da grandi ondate di luoghi comuni, un po' suscitate dalla politica, un po' suscitate da un certo mondo della cultura e dell'informazione, un po' suscitate dal fatto che gli italiani sono preoccupati e cercano un capro espiatorio. In realtà il mondo è più ricco e complesso. Complesso non vuol dire che non si può fare niente, ma che è interessante andare a vedere i dati. Ne abbiamo discusso a Vicenza l'altro pomeriggio a lungo, con una platea molto interessata, proprio perché questo schierarsi gli uni contro gli altri, guelfi e ghibellini, mi pare la cosa più sciocca da fare. Abbiamo un paese da rimettere in sesto, alla politica e alle classi dirigenti il compito di farlo, a chi scrive libri il compito di dare qualche informazione sempre sostenuta da dati, un po' meno banale, per cercare di un po' tutti di vedere a casa nostra tutto quello che non va e essere orgogliosi delle cose che si fanno e tutti insieme provare a fare risparmi e soprattutto a migliorare l'efficienza dei servizi pubblici. Se la scuola italiana nei prossimi 10 anni non migliora molto, le imprese italiane avranno sempre più difficoltà a stare nella concorrenza internazionale. Senta professore, c'è un elemento che mi interessa particolarmente, perché qua stiamo parlando appunto di bilanci delle regioni e di situazione delle regioni. Allora, c'è un capitolo del suo libro che è dedicato esattamente a questo, a come sono andati avanti e come si è proceduto nel infrastrutturare anche dal punto di vista ospedaliero il Mezzogiorno. E lei segnala che molti dei problemi, una discreta quota dei problemi, deriva proprio da là. E però io le dico, però c'è anche una un'incapacità di spendere correttamente. Insomma, i numeri che ha fornito Zaia noi li raccontiamo da un sacco di tempo, sono oggettivi, sono numeri. Nel momento nel quale paghi un pasto in ospedale 6 euro in Veneto e 60 euro in un'altra regione del sud, beh, insomma, un problema ci sarà su come vengono gestite le cose. Problemi ce ne sono molti, ma la cosa più interessante che serve per migliorare è che non c'è una sola causa per cui arriva un commissario e mette tutto a posto. Questo mito che arrivi qualcuno in gamba e sistema le cose nei servizi pubblici italiani credo che sia profondamente sbagliato. Serve ricordare un attimo la storia, cioè che al sud la sanità 50 anni fa praticamente non c'era, è stata creata tutto insieme. È stata gestita male, molto male, pianificata male, troppi ospedali e troppo spesso gli ospedali usati per assumere o per dare commesse a amici che si volevano favorire. Quindi veniamo da una mala gestione molto profonda. Allo stesso tempo al sud non c'è una rete di servizi assistenziali degna di questo nome. Ce n'è un po' di più al nord, ma in tutti questi campi l'Italia è più indietro rispetto agli altri paesi europei. Quindi la sanità spesso svolge un ruolo di supplenza impropria. Purtroppo quello che accade è che le persone anziane di famiglie che non riescono a mantenerle, pur non ammalati, vengono ricoverati e questo va a danno delle tasche di tutti gli italiani e va a danno del benessere di quelle persone. La sanità è interessante infine perché è un campo nel quale molto si è mosso. L'assessore Bianchi ricordava il caso della Sicilia, che è molto interessante perché certamente la cosa peggiore della sanità del centro-sud era questo fatto che non si rispettavano i conti e che poi il deficit veniva posto sulle spalle di tutti gli italiani. Mm. Su questo si sono fatti passi avanti, quindi sì, non siamo sempre all'anno zero. Però ci sono volute delle gestioni commissariali là, anche se non dal nord. Allora la fermo, io si voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore. Salvatore da Catania, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io mi auguro che ci sia ancora il governatore Zaia in ascolto, perché mi volevo rivolgere direttamente a lui. Perfetto. C'è. Governatore, buongiorno. Ma io, premesso che ho piena stima nei confronti del governatore, però tante volte questi della Lega Nord, quando si rivolgono alle regioni del sud, si dovrebbero rivolgere solo esclusivamente ai politici. Quindi loro devono parlare, quando parlano del Meridione, dei politici del Meridione, perché noi siciliani, noi del Meridione, guardi che siamo stanchi. Salvatore, però io la posso interrompere un attimo? Adesso io le farò rispondere da Zaia. Io però, a me questa cosa che riguarda tanto il Meridione quanto riguarda quanto tutta Italia, a me questa roba mi fa impazzire. Chi li vota questi politici? Chi li manda nel Parlamento siciliano, nel Consiglio regionale della Calabria, piuttosto che anche nel nostro Parlamento nazionale? Non è che li vota qualcun altro, no? Mi sbaglio, scusi. No, se posso. Guardi che tutto il Meridione, fino ad oggi, tutti i politici hanno fatto una marea di voti grazie alla disoccupazione. Perché qua in Sicilia ci sono persone che la mattina si alzano per andare a lavorare. La disoccupazione, dal mio punto di vista, la vogliono creare i politici, perché è da lì che poi loro raccolgono, tramite le promesse elettorali, tutta una marea di voti. Lei dice in questo modo attraggono consenso, naturalmente. È un problema anche questo. Poi ne parliamo magari anche con Viesti e con Bianchi di questo. Prego, per concludere. Scusi. Vorrei dire al governatore Zaia, ma visto e considerato che lui ha la capacità di gestire una regione, ma perché non venga a presentare un progetto politico qua in Sicilia? Guardi che ha trovato il primo sostenitore. Iniziamo a fare campagna elettorale. Grazie, grazie Salvatore. No, mi sembra chiarissimo. Zaia, prego. Io partirei da questo intervento, lo condivido pienamente. Io peraltro dico sempre, faccio l'amministratore, non faccio il politico, non sono mai stato in Parlamento, ho fatto tutte le cariche amministrative, Ma mi permetto però di dire che non dobbiamo prenderci in giro, cioè c'è un dato concreto che è quello della spesa. E la sanità della Sicilia, beh, facciamo un esempio della sanità della Sicilia, ci sono dei rapporti rispetto alle posizioni apicali, rispetto alla mia regione che ha gli stessi abitanti della Sicilia più o meno, dove io ho un primario e lì la stessa specializzazione cuba 10, cioè è 10 volte tanto sono le posizioni apicali. Ma vorrei anche dire, cioè, capisco il tema dell'occupazione ed è una emergenza. Però non è che io posso vedere che la Sicilia ha 25.000 forestali o 22.000, quelli che saranno, e il Veneto ne ha 400. Non dico di licenziarli, ma sarebbe già un bel segnale non assumerne di altri. E allora tutte queste questioni poi alla fine nella contabilità finale fanno buchi, creano guai e non ci permettono di essere efficienti. Guardi, il mio Veneto negli ultimi 30 anni ha chiuso 57 ospedali, per dare appunto supporto a quello che diceva il professore prima. Cioè, poi bisogna anche razionalizzare, bisogna far capire ai cittadini che per curare bene un cittadino tu non puoi tenere aperta una chirurgia che fa un intervento chirurgico al giorno. Queste sono le vere sfide. Noi abbiamo, su mia volontà, aperto gli ospedali di notte, lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 8 a mezzanotte. E lì si fanno solo indagini, radiografie, TAC, risonanze, perché le liste d'attesa da me sono zero. C'è una donna, quando vuole fare la mammografia, in 24 ore gliela facciamo fare. E non è che abbiamo la bacchetta magica. Bisogna cominciare a mettere i puntini sulle i. E tutta questa gente che si assume non serve a nulla se l'obiettivo è poi curare male i cittadini e questi cittadini, anche i siciliani, vengono in Veneto a curarsi. Allora, è dovuta una risposta da parte di Luca Bianchi, lo ricordo, assessore all'economia della Sicilia a questo punto, una risposta a Zaia, insomma. Sì, ma non è la risposta che probabilmente vi aspettate. No, guardi, molte cose che ha detto Zaia le abbiamo fatte e le stiamo facendo. Cioè, invito il governatore a vedere che poi nulla è sempre uguale, tantomeno il Mezzogiorno, che è un territorio con tutti i suoi problemi in grande cambiamento. Noi non solo non abbiamo fatto neanche un'assunzione, noi non solo abbiamo fatto la prima finanziaria regionale degli ultimi 20 anni che non prevede un solo precario aggiuntivo, ma anzi abbiamo riconvertito il tema dei forestali che lui ricordava. È vero, abbiamo oltre 20.000 forestali. Noi abbiamo con una legge regionale tirato fuori i forestali dalle foreste, dai boschi, ora stanno lavorando in convenzioni con tutti i comuni per pulire le aree pubbliche, con gli ospedali per pulire tutte le aree verdi degli ospedali. Abbiamo dato ai forestali in gestione tutte le riserve naturali. Sapete la Sicilia quanta potenzialità ha di turismo, di riserve in cui poi non erano gestite, quindi loro adesso gestiranno le riserve e per questo chiederanno anche il costo di un biglietto per chi entra. È chiaro, bisogna fare riforme strutturali complesse in cui paghiamo inevitabilmente gli errori del passato, però non stiamo lì a perpetrare il modello del passato. Cioè, noi in Sicilia stiamo veramente cambiando le cose, quindi il governatore Zaia lo inviteremo, quindi a me non interessa fare una polemica, sono più bravi quelli del nord, del sud. Noi abbiamo degli obiettivi, ha ragione il governatore, bisogna darci degli obiettivi di riqualificazione e riduzione della spesa. Questo impone dei processi e li stiamo facendo. Ultima battuta sulla sanità. È vero che i poveri, i siciliani devono andarsi a curare spesso fuori dalla regione. Questo è un problema non solo di qualità della gestione della sanità, è anche un problema di investimenti. Però ricordo che la regione paga, cioè non è che è una... Sì, questo è un punto importante, Zaia, la fermo Bianchi, questo è un punto importante, Zaia, perché quelli che si vengono a curare in Veneto, poi per quelli che si vengono a curare in Veneto, il Veneto prende i soldi dalle regioni del Mezzogiorno. Beh, fermo restando che poi sulla contabilità di questi pagamenti avrei anche da ridire. Noi lo facciamo volentieri. E cioè? Nel senso che poi non c'è tutta questa efficienza nel pagamento e si attendono anche i soldi. Ma non sto facendo accuse, per carità, questa è anche un'azione che è eticamente da sostenere, è dovuta, anche se si dovesse far gratis, la si fa, punto e basta. Il vero, non avanziamo soldi comunque. Il vero tema è un altro. Il tema è che noi siamo assolutamente per il riscatto del Sud. Un ragazzo su due al Sud non lavora. Cioè, questi sono dati di partenza. E la sanità del Sud può essere una sanità efficiente. Guardi, guardando i dati che hanno e la qualità della spesa che hanno, ma se io avessi in mano quei bilanci e quella situazione territoriale e logistica della sanità, ma sicuramente riuscirei a dare molto di più. Io non sto accusando l'amministrazione e il governo siciliano, per carità, si sono insediati anche da poco, però anche loro pagano lo scotto di scelte sbagliate negli anni. E lei diceva bene prima, mi perdoni se muto le sue parole, poi cioè, chi è causa del suo mal piange anche se stesso, perché poi questa situazione qua l'hanno creata i politici, è colpa dei politici, ma qualcuno li ha anche votati questi politici, eh. Non è che possiamo ciclicamente lamentarci di quello che ha governato, per poi votarne un altro che governa peggio. Cioè, questa è la situazione che spesso ne viene fuori. Quindi noi diciamo semplicemente che non abbiamo nulla contro il Sud. Ha ragione il cittadino da Catania, Salvatore se non sbaglio, di dire che chiariamo. Il tema è la mala gestio, che non è una mala gestio del cittadino del Sud, è una mala gestio di chi gestisce le cose, che spesso le ha gestite male. E sul tema finanziamenti, me lo lasci dire, io sono stato anche ministro, non si venga a raccontare la storia che il Sud non ha avuto finanziamenti. Cioè, dati alla mano, il Sud ha avuto una valanga di finanziamenti, molto spesso alcuni anche non sono stati spesi, abbiamo restituito anche soldi di fondi comunitari, perché il Sud non sapeva cosa farsene. Allora, su questo ci torniamo con Viesti. Intanto le voglio leggere, prima della pausa, un paio di messaggi che ci arrivano sulla nostra pagina Facebook. Sono di Michele e di Alessandro. Due sono arrivati in fila. Il primo, Alessandro: Zaia, son veneto anca mi e varda che liste d'attesa e gezè e come. Io provo a pronunciare, son umbro, cresciuto a Roma, quindi perdonate il cattivo accento veneto. E no, anche pronunciato bene. E anche lunghette, le ho appena sperimentate, non è vero che tutta la sanità veneta è così efficiente. Michele, la fermo perché poi abbiamo una pausa, intanto li leggo e poi ci risponde dopo la pausa. Dite a Zaia che quando mai in 24 ore fanno un esame, ci scrive Michele da Mestre, una pausa e poi torniamo con lei. 9 in punto. Allora, un paio di risposte anche a chi ci scrive su Twitter, naturalmente, insomma, chi ci ricorda quello che era l'Italia prima e dopo l'unità. Questo è un vecchio problema, prima del 1861, dopo il 1861. Guardi, Nicola, a lui e a tutti gli altri che mi scrivono su questo, ho fatto per un anno una trasmissione quotidiana dedicata al Risorgimento nell'anno dei 150 e le dico, su questo ci sono interpretazioni divergenti, perché per esempio l'infrastrutturazione del Sud al di fuori di Napoli, al di là della famosa prima ferrovia, non è che fosse sto granché, soprattutto dal punto di vista delle strade. Quindi a chi ci parla di un problema di mala unità, c'è sicuramente in parte stato anche questo, ma a scrivere solamente a questo il problema del Mezzogiorno mi sembra francamente un po' pochino. Allora, Zaia, la devo far rispondere ai due ascoltatori, non sono solo loro, anche qualcuno su Twitter ci scrive, ma quando mai 24 ore per una mammografia? Prego. Beh, guardi, innanzitutto volevo dire che il Veneto è entrato in Italia, cioè l'annessione del Veneto è avvenuta nel 66, nel 66 noi conoscevamo una grande ondata emigratoria del Veneto, abbiamo veneti in tutto il mondo, per cui non girava bene neanche da noi. Mio nonno è nato in Brasile nel 96, faccia conto lei, nel 1896. Detto questo, doverosa risposta ai cittadini, perché spesso si fa confusione. Io ho solo una parola, quindi ho anche un numero di telefono, è 041-279-2863, 041-279-2863. Quando si fa a fare la prescrizione per una visita dal medico, ci sono quattro livelli di urgenza, di tempistica. La visita urgente prevede che debba essere fatta l'indagine entro 48 ore, le posso garantire che in Veneto si fa. Questi cittadini possono tranquillamente chiamarmi e mi spiegano qual è stato il loro caso, perché spesso si fa confusione, noi facciamo visite anche a 6 mesi, ma sono le visite di controllo. Cioè, ripeto che una mammografia in 24 ore, urgente, noi la facciamo. Mi chiamino e gli spiego io dove si va a fare. Se poi il cittadino, quando chiama il CUP, cioè il Centro Unico di Prenotazione, gli danno l'alternativa, gli dico non l'ospedale vicino a casa, ma l'ospedale a 15 chilometri, e tu rispondi che vuoi aspettare comunque perché non ti va di andarci, e questo è un altro discorso. Ma noi questo lo garantiamo, cioè garantiamo il rispetto dei parametri che ci siamo fissati. Quindi i cittadini mi fanno un favore, mi chiamino 041 279 2863 e ben volentieri, se hanno subito dei casi dove sono stati rispettati questi tempi, intervengo io. Lo sanno perché, guarda, io mando ispezioni dappertutto. Fantastico. Perché non ne voglio sapere di queste cose. Fantastico, call center Luca Zaia. Allora, ma guarda, io lo fa... No. Ma... Capisco la battuta, ma io lo faccio d'ufficio, lo credo. Lo credo. Francesco, dalla provincia di Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io sto ascoltando il vostro programma che ritengo molto interessante, se non per una parte che io non riesco a capire. Allora, se il governatore Luca Zaia ha messo sul tavolo una proposta che mi pare concreta, perché dall'altra parte gli ospiti argomentano una non controproposta attiva in maniera tale che poi alla fine ci possa essere un'analisi economica sull'effettivo risparmio, ma si fanno ricorsi storici, si fanno analisi su quella che può essere una visita nella regione Veneto piuttosto che in altre regioni. Io sono abituato che nel momento in cui io ho un problema, analizzo il problema, indipendentemente se questo fa parte di un problema ancora più grosso, perché se io comincio a risolvere tutti i problemi uno per uno, forse arriva una soluzione. Cioè, quello che io sto dicendo è: gli ospiti dovrebbero analizzare la proposta di Luca Zaia per quella che è stata messa sul tavolo. Cioè, io se fossi l'ospite direi: egregio governatore, l'idea può stare. Cosa propone in termini attivi, cioè spostare persone in altre regioni? Perché di fatto la trasmissione si sterilizza su argomenti che possono essere altamente filosofici. La ringrazio per il pezzo di critica radiofonica. Detto ciò, capisco che cosa vuole dire e a questo punto voglio far rispondere Viesti, perché la questione che ha posto l'ascoltatore mi sembra interessante. Cioè, noi possiamo anche risalire alle radici, Viesti, di come mai la sanità meridionale è messa così male, come mai abbiamo un sistema di welfare, per esempio, e questo non lo dice solo lei, lo ribadisce anche oggi il ministro Trigilia, che è un'altra persona che si occupa parecchio di Mezzogiorno, in un'intervista all'Unità. Possiamo anche dire, per esempio, il nostro sistema di welfare tende a premiare, aperte virgolette, i posti dove c'è lavoro e quindi molta spesa per il welfare va là, mentre invece c'è scarsa protezione per i posti dove il lavoro non c'è. Possiamo raccontarci tutto questo, l'origine di tutto questo. E però c'è un problema di bilancio da risolvere in una serie di regioni. Forse in Sicilia lo stanno risolvendo, come ci ha raccontato e come ci sta raccontando Luca Bianchi, ma ci sono altre regioni che sono in condizioni terribili. Quindi, alla fine, perché no? Uno dice: là ci sono le competenze ce l'hanno e l'hanno dimostrato loro, ha dimostrato l'Emilia Romagna per andare in regioni governate da altre parti politiche, insomma, alla fine, no? Perfetto, allora guardiamo avanti, liberiamoci di due totem del passato, degli ultimi 10 anni, riguardo al federalismo. Il primo, che più si decentra ogni cosa meglio è; il secondo, le regioni sono assolutamente autonome, sono dei piccoli stati e nel loro territorio possono fare tutto quello che vogliono. Proviamo a fare un passo avanti e diciamo che innanzitutto ci vuole un centro competente che sia in grado di dare premi e sanzioni e di accelerare il miglioramento delle regioni. Secondo, che ci vogliono dei meccanismi di collaborazione, di diffusione di buone pratiche, di apprendimento fra le diverse regioni. E terzo, che ci vuole il completamento della riforma del sistema finanziario. Quindi costi standard, ma anche, come viene detto nella legge sul federalismo, tenere conto della circostanza che i costi dipendono anche dalle dotazioni e dalla situazione dei diversi territori. Questo non lo dico io, lo dice la legge. In particolare bisogna fare un percorso virtuoso che in parte in molti ambiti è stato fatto. Ripeto, non siamo all'anno zero, noi viviamo in un paese che è molto un po' disperato perché vede che niente funziona. Non è così, in molti ambiti sono stati fatti miglioramenti, nelle quali ci vuole uno scambio virtuoso tra potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni, che sono molto dispari in tutto il paese. Pensi alla sanità, c'è un rapporto di Banca Intesa di un paio di anni fa sulle dotazioni infrastrutturali nei diversi ospedali del paese, che parla molto chiaro: una parte della mobilità sanitaria è dovuta al fatto che in molti ospedali del sud non ci sono le apparecchiature per fare questi interventi ad altissima complessità, e allo stesso tempo teniamo sotto controllo la spesa corrente. Credo che si possa fare con una dose molto maggiore di pragmatismo e una dose molto minore di ideologia. Ho qualche perplessità, professor Viesti, e qua sto facendo, se vogliamo, l'avvocato del diavolo, ma nemmeno troppo, a dir la verità, insomma, perché poi lei dice, insomma, sì, c'è una carenza infrastrutturale, magari, insomma, non c'è quell'apparecchiatura per fare quel tipo di operazione, e però c'è anche un residuo forte e molto presente di quello che potremmo definire genericamente clientelismo, quello che poi fa sì che appunto il numero di primari in una regione del sud sia 10 volte quello del Veneto, e questo fa sì che poi inevitabilmente non si attraggano nemmeno le competenze per poter lavorare decentemente in un ospedale. Ma non c'è dubbio, glielo dicevo prima, che le cause sono molteplici. Esatto, ma dico, questo è un problema non grosso. Non c'è dubbio, bisogna, teniamo presente che la spesa sanitaria pro capite è comunque più bassa nel Mezzogiorno che nel resto d'Italia, come ulteriore elemento, non sto dicendo che deve essere aumentata, ma è un ulteriore elemento da tenere in considerazione. E non c'è dubbio che c'è un ruolo della politica molto importante, tema scivoloso che fa subito accendere i cuori e volare le parole, però come posso non ricordare, chiamavo un ascoltatore di Catania, che il governo di cui faceva parte il presidente Zaia ha ripianato con un colpo di bacchetta magica il deficit di bilancio del comune di Catania. Diciamo, quei politici che l'avevano creato sono stati premiati, quindi c'è un problema un pochettino più intricato, diciamo, di come vota la gente e del rapporto tra voto locale e politica nazionale. Questo è interessante. Allora, Zaia, io non so se può rimanere con noi fino alla fine della trasmissione, a me farebbe piacere, in tutta sincerità. C'è? Quando finisce? Tra 10 minuti. Vabbè, allora attendo. Ma sì, va. Allora, così ci sentiamo anche qualche altro ascoltatore. Mario da Bari, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Volevo intervenire per essere un po' più incisivo rispetto a quello che sono stati Bianchi e Viesti. Io posso permettermi di non essere political correct, ma sicuramente gentile con il presidente Zaia, non il governatore. Non c'è il governatore, c'è il presidente Zaia. Ci spieghi se noi qui a sud, io sono un manager, siamo altrettanto incapaci come, insomma, ha fatto intendere con la sua proposta. Questo è il problema. Poi ci sarebbero tanti altri aspetti da discutere, ma lui sta dicendo fondamentalmente che qui noi saremmo incapaci, ci sono dei tecnici che sarebbero incapaci di gestire le nostre regioni. Grazie. 9 in punto. Zaia, brevemente una risposta, dice l'ascoltatore che fa il manager, insomma, ci sta dicendo che non siamo capaci. No, guardi, a me spiace che ci sia questa interpretazione. Del resto devo anche dire che dall'intervento si capisce che c'è astio, non c'è libertà di pensiero, perché uno che esordisce dicendo Zaia è presidente e non governatore, cioè, penso che nessuno si sia posto la questione, no? Cioè, se poi lui dà altri contenuti, non ho offeso assolutamente i manager del Sud, che io ne conosco di bravissimi, e se va a leggersi, a risentirsi la registrazione di questa intervista, ho detto c'è un problema di professionalità, noi ce l'abbiamo, ma abbiamo anche una come si può dire, una classe di dirigente, di manager che si è formato in 20-30 anni, ho detto, questa non è mica una colpa, è un dato di fatto. Se poi vogliamo la polemica, la sto signora la polemica, se la faccia davanti allo specchio, io non ho tempo da perdere. Lei dice, insomma, il capitale umano ce l'abbiamo e siamo disposti ad esportarlo. Luca, no, Bia... guardi, no, mi perdoni, c'è stata una telefonata illuminata di quel signore che ha detto, ma il problema è questo, stiamo discutendo di un tema che è quello di alcune regioni che hanno difficoltà a svangare, a uscire dal caos totale. Abbiamo 5 miliardi di buco della sanità. Se vogliamo parlare di questo, ok, parliamo di questo. Sì. Se vogliamo parlare di fantasie, continuate a restare lì dove siete e finirà che viene giù il mondo, perché andrà a finire così. Allora, io voglio ricoinvolgere Luca Bianchi a questo punto, proprio invece sul cuore del tema e riprendendo la telefonata dell'ascoltatore da Venezia, quella che citava Zaia adesso. Insomma, una risposta concreta su questo, perché è vero che i problemi sono complessi, ma il punto è quello che dicevo poco fa, no? Se il capitale umano c'è, se il capitale umano ce l'hanno in queste regioni e sono disposti a cederlo, ad offrirlo, perché no? Insomma, questo non riesco a capire, Bianchi. Cioè, perché viverla come una sorta di offesa alla sovranità, come ha fatto quel signore di poco fa? No, guardi, nessuna offesa alla sovranità. Il problema è capire qual è il problema, ma voi siete convinti che il problema è la professionalità delle persone? Io non sono però Bianchi, mi permetti. Io vengo da fuori. Mi permette di dire una cosa. Il punto non è solamente la professionalità, è sicuramente, come dire, la professionalità nel senso che c'è una capacità di gestione che, come diceva Zaia, dura da anni, ma è anche il fatto di essere esterni al mondo che si va a governare e quindi con meno interessi, meno attenzione a determinate situazioni locali che in realtà esistono al sud in maniera più marcata, ma esistono in realtà in tutto il paese. Allora questo forse può essere utile, sì. Questa è un po' anche la mia esperienza. Io calcoli, non sono siciliano, mi dicono sono il primo assessore della storia della regione siciliana non siciliano, perché la questione del bilancio regionale era tale che probabilmente servivano anche, appunto, non avere collegamenti col territorio. Questa però è un'altra questione, cioè non è una questione, appunto, bisogna stare attenti. Io apprezzo la proposta, perché su singoli temi io sono sicuro che magari se noi dobbiamo fare la riforma di, appunto, del sistema delle prenotazioni e l'esperienza del Veneto è la migliore esperienza d'Italia, io non ho nessuna difficoltà a chiamare il governatore Zaia e dico per favore mi mandi i tuoi migliori esperti e mi aiuti a costruire un sistema regionale qua, ma io lo farei, lo faccio subito, lo faccio continuamente, lo stiamo facendo con il Piemonte sulla questione dell'informatica, quindi non è quello il problema. Il problema è, come al solito, è il messaggio politico, che non è accettabile lanciare il messaggio politico che le regioni del nord sono più efficienti in assoluto, perché il buco della sanità, io continuo a dirlo, i 5 miliardi sono Piemonte, Lazio, Campania e Calabria, e Sicilia molto poco ormai. Cioè non è vero che è un problema soltanto della sanità del mezzogiorno, quindi il problema è che bisogna chiamare i più bravi su ogni tema, quindi facciamo trasparenza sui dati. Cioè se la siringa in Sicilia costa più che in Veneto, questa cosa deve apparire e noi dobbiamo intervenire, su questo l'abbiamo fatto, quindi con trasparenza dei dati, informazione e certezza. A prendere le professionalità dove servono, da dove sono le migliori, ma non è detto che siano al nord, siano al centro, siano al sud, cioè sgombriamo dalla questione territoriale, la questione territoriale è una questione di sviluppo, è una questione che nel mezzogiorno sono molti più poveri e molti meno occupati. E noi dobbiamo tornare a fare politica di sviluppo. La Lega Nord in questo senso ha avuto un ruolo molto negativo negli ultimi 15 anni perché ha interrotto il processo di le politiche per lo sviluppo produttivo, cioè per gli investimenti, che con mettendo tutto insieme la critica giusta e sacrosanta sulla politica, però ha impedito che si continuasse a fare politica di sviluppo rispetto al mezzogiorno, tant'è vero che la spesa pro capite per investimenti, il professor Viesti lo sa meglio di me, è attualmente più alta in Veneto che in Sicilia, cioè lo Stato spende più per investimenti, diciamo, in Sicilia, infrastrutturali, in Veneto che in Sicilia. Allora... Questo è un errore. Poi il problema dell'efficienza è un problema di collaborazione, se loro sono più bravi, magari... Porte aperte. Una task force giù che ci aiuta, io non ho nessun problema, cioè... Il problema non diciamo che però i veneti sono per definizione più bravi dei siciliani. Porte aperte dunque, comunque mi sembra di capire. Edoardo da Napoli, buongiorno. Breve, brevissimo. Sì, no, volevo esprimere il mio apprezzamento per quanto espresso da Zaia, soprattutto per lo spirito con cui l'ha espresso, che si allontana un po' anche dai ragionamenti un po' estremistici della Lega. Penso che sia una proposta positiva che potrebbe essere accolta nelle regioni del sud, perché come capita anche nelle aziende si attuano quelle che sono le buone pratiche di altre aziende e quindi si potrebbe anche applicare nelle regioni. Grazie Edoardo. Lino da Bari, brevissimo. Buongiorno. Prego. Senta, il tema che io vorrei sottolineare, e io sono un meridionale che frequenta gli uffici in quanto imprenditore, tutti i burocrati delle regioni del Mezzogiorno hanno conquistato il loro posto di lavoro con un voto di scambio, quindi la loro qualità non è adeguata al ruolo che coprono, perché sono stati privilegiati da qualcuno che li ha scelti e oggi paghiamo questo prezzo. L'assessore della Sicilia parla di oggi, parla di quello che sta facendo lui, ma lui deve fare i conti con una burocrazia vecchia di 30 anni, di 40 anni. Il problema è quello, ben venga questa osmosi o questo scambio con i funzionari del nord. Io frequento anche il nord e vedo che sono più efficienti, sono più cordiali, sono più disponibili. Questa è la mia testimonianza. Grazie Lino. Allora, io avrei voluto dare l'ultimo minuto a Luca Zaia, ma purtroppo il tempo, come si dice in questi casi e con luogo comune, è tiranno, quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio Luca Zaia, Luca Bianchi, Gianfranco Viesti, magari ci risentiamo una volta sempre per tornare sui temi del Sud, magari non solamente sulla sanità, ma un po' più in generale. Chiedo scusa ad Onofrio da Verona e a tutti gli altri che non sono riuscito a far intervenire oggi, però mi sembrava importante far parlare approfonditamente i nostri ospiti. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo lunedì, come sempre, dopo il GR delle 9. Ricordati! Mancano 80 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.